Disco Dallas senza banana. Mauro, ho bisogno di dirti una cosa. Dimmi. Domani. Hai bisogno di dirmi domani? Ho bisogno di dirti domani. Ok, forse non era proprio la battuta del secolo, forse non era un attacco meraviglioso, però c'è un perché. E questa frase in realtà è il titolo di un album e io avevo pensato di parlarne come disco della settimana. Tra l'altro siamo arrivati un pelino tardi perché le nostre colleghe del giovedì, Valeria e Erika, hanno intervistato il cantautore di cui vi parliamo oggi in questo disco della settimana negli studi di Radio Città Fujiko già giovedì pomeriggio. Esatto, quindi cogliamo anche l'occasione per ricordare che potete riascoltare la loro intervista, basta cercare il podcast sul nostro bellissimo nuovo sito della radio, radiocittafujiko.it. Stiamo parlando ovviamente di Nicolò Carnesi. Beh, adesso ovviamente non è neanche detto, magari io non lo sapevo, cioè no, io dovrei saperlo visto che ne stiamo parlando, eh. Comunque Nicolò Carnesi appunto è stato ospite a Radio Città Fujiko, ma nella stessa giornata stava anche a Bologna per presentare appunto il nuovo disco. Infatti c'è stato lo showcase per presentare Ho bisogno di dirti domani, che usciva il giorno successivo. Esatto, l'11 ottobre per Goodfellas Porto Records è uscito il quarto lavoro discografico dell'artista siciliano, appunto Nicolò Carnesi, ed è un album con un fil rouge. Tutte le canzoni sono legate da un tema principale, che è quello del tempo, di cui però magari parliamo più approfonditamente dopo avervi fatto ascoltare il primo singolo, direi, estratto da quest'album. Ma qual è il primo singolo estratto da quest'album, Mauro? Stupiscimi, raccontami tutto. Il primo singolo si chiama Turisti d'appartamento ed è la traccia numero 3 di questo bellissimo album, di cui continueremo a parlarvi dopo la canzone. Tutto qui, un saluto e via, per la propria strada. Che dicembre è freddo, dicevi non si può. Ci si può lasciare andare, ma ci si può innamorare di nuovo. Ci si può riscoprire, farsi trascinare, ci si può rincontrare. Tra le mura di casa immaginiamo un mondo, fare i turisti nell'appartamento. Un ristorante stellato, il letto, un mare alle Maldive, in lampada. Mauro, adesso che abbiamo ascoltato il primo pezzo, io devo ammetterlo, io non lo conoscevo benissimo Nicolò Carnesi, quindi mi sono documentata e sono andata a cercare un pochino la sua storia per capire chi è Nicolò Carnesi. Ho cercato un po' la bio ed è un cantante che in pratica poco più che ventenne nel 2012 ha iniziato a suonare e da subito è piaciuto un sacco sia alla critica che ai fan, che a questo punto erano ormai diventati nuovi follower. Sì, nel 2012 pubblica il primo album che si chiama Gli eroi non escono il sabato. È un bellissimo titolo, che comunque era un album che ha visto la collaborazione di un artista che si ritrova anche poi nell'ultimo album. Infatti Brunori Sas già dal 2012 ha dato il suo apporto, diciamo, al lavoro di Nicolò Carnesi a questo primo album, che è arrivato dopo il singolo Il colpo e l'EP O poca fantasia. Quindi il primo album è del 2012, ma già un pochino aveva fatto parlare di sé, dicevamo, Carnesi. Carnesi e Brunori Sas, peraltro tutti e due d'origine siciliana, tutti e due siciliani, insomma, li lega un po' questa terra, ma anche il modo di fare canzoni. Sono autori con dei testi acuti, cinici, molto profondi. Adesso non parliamo in generale, torniamo a parlare di Nicolò Carnesi. Cosa fa? Dopo il 2012, dopo aver pubblicato appunto Gli eroi non escono il sabato, un album molto eclettico in cui rielabora diversi generi musicali, comunque restando sul cantautorato, anche perché la cosa principale delle canzoni di Nicolò Carnesi sono appunto i testi, le parole che lui usa. Che sono molto originali, sia le musiche che le parole rimangono in testa, effettivamente non si perdono nel marasma del cantautorato pop italiano. Nel 2014 esce il secondo album, che si chiama Ho una galassia nell'armadio. Anche qui già il titolo è abbastanza enigmatico e poetico, no? E vede la collaborazione di Tommaso Colliva alla produzione e vari strumenti, Roberto Angelini alla slide, la chitarra, il grande Roberto Angelini, Rodrigo D'Erasmo agli archi, Selton alle ritmiche e Di Martino al basso. Insomma, mica gli ultimi arrivati, eh? Tra l'altro tutti con un sacco di R. Comunque questo album, tra l'altro, è stato anche candidato al premio Tenco nel 2014, quindi effettivamente già al secondo lavoro c'era un grande riconoscimento per il lavoro di Nicolò Carnesi. E anche lì l'album vede un sacco di date, un nuovo tour, anche come special guest Brunori Sas, e festeggia le ultime date, le 100 date a Milano con le luci della centrale elettrica, Dente e i Selton. Insomma, amiconi ormai, cioè, erano già un gruppo consolidato dopo aver creato questo secondo album, ma non era contento ancora Nicolò Carnesi, ha detto: ma io voglio fare un altro album, quindi altri due anni, e arriva il terzo album, cioè Bellissima Noia. Ma non è ancora contento Nicolò Carnesi, intanto collabora con tantissima gente, di nuovo con lo Stato Sociale, Dente, Brunori Sas, Di Martino, le luci della centrale elettrica e Appino, e nel 2019 pubblica il singolo e il video Spogliati. E così? Vabbè, non ci vede nessuno, siamo in radio lì. E lo dice a Brunori Sas, che è presente nel video. Ah però, no, allora qua diventa una roba un po' diversa. Esatto, Brunori Sas anche in questo caso effettivamente collabora con Nicolò Carnesi, in un video che è anche molto simpatico comunque. A questo punto poi si arriva all'uscita del 11 ottobre, cioè di qualche giorno fa. Ho bisogno di dirti domani, che adesso continuiamo a farvi ascoltare con il secondo singolo estratto, che si intitola Borotalco. Perché Allora, adesso abbiamo detto qualcosa sull'album, abbiamo detto qualcosa su chi è Nicolò Carnesi, per chi per caso non lo conoscesse, e arriviamo a un po' a vedere il suo punto di vista, no? Perché noi parliamo sempre degli album dal nostro punto di vista, però a me piace anche molto, quando facciamo il disco della settimana, scoprire cosa dicono gli artisti, i musicisti del loro lavoro. E infatti Nicolò Carnesi parla di quest'album e dice già una cosa che a me mi fa simpatia, la sento abbastanza mia: per la mia generazione l'ansia è diventata una condizione quasi normale. Ecco, a posto, cioè sono d'accordo con te, caro Nicolò, parliamone se vuoi, dovuta all'impossibilità di intravedere una prospettiva e proiettarsi in avanti nel tempo, collocandosi in un futuro percepibile. Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e nello stesso momento ciò che più ci manca. Non ho tempo, vorrei avere il tempo, sono frasi che diciamo di continuo, senza nemmeno farci caso. In effetti il tempo è la valuta più importante che abbiamo, il massimo che possiamo donare a qualcuno a cui teniamo. Infatti ho bisogno di dirti domani, ci dice Nicolò Carnesi, è questo, è una promessa di tempo nei confronti degli altri e anche di me stesso, dice, riferendosi proprio a se stesso. La voglia e la necessità di avere una prospettiva, un futuro, ma anche un presente che abbia una sua dimensione autentica. Poi racconta un aneddoto molto interessante che quindi vi riportiamo. Quando ero piccolo e immaginavo il futuro, cioè quello che adesso è il presente, vedevo macchine volanti che viaggiavano da un pianeta all'altro. Non avrei mai potuto immaginare che ci saremmo ritrovati a viaggiare comodamente seduti sui nostri divani, a lasciare che un algoritmo sociale manipolasse scelte, gusti e persino le reazioni. Nella nostra vita siamo sempre portati a pensare che solo il presente sia reale, ci imponiamo di viverlo appieno per non perdere neanche un attimo, seguendo l'imperativo del carpe diem nelle nostre scelte. Poi continua dicendo che pensa, in realtà, che il presente finiamo per non viverlo mai realmente, si trasforma in un'illusione sostanzialmente. La nostra mente è sempre proiettata o in avanti o all'indietro, a quello che è successo un attimo prima o quello che potrebbe accadere un attimo dopo, e nel momento in cui accade è già di nuovo cessato. Cioè io per esempio adesso sto pensando a che pezzo mettiamo dopo. Però dice anche un'altra cosa: il tempo è il concept appunto di questo disco, scandite anche da tre tracce, la prima che si intitola Il presente, la traccia numero 5 che si intitola Il futuro e la numero 10, l'ultima, che si intitola Il passato, e scandiscono appunto il passaggio del tempo. Insieme al ticchettio delle chitarre in linea scandiscono la narrazione in storie frammentate di relazioni che nascono ed evolvono, vivono l'illusione del presente, si condizionano a vicenda e terminano, percorrendo un loop infinito, una temporalità circolare in cui tutto è già successo e tutto deve ancora accadere. Quindi è un album infinito, cioè quello che succede continuamente, no? Sempre presente, futuro, passato, ma noi non ascoltiamo nessuno di questi tre pezzi e anzi ascoltiamo il brano numero 2, che si chiama esattamente come il titolo dell'album. Ho bisogno di dirti domani. We'll be right back. scia sui nostri bracci solitari, che le bombe e le democrazie esplodono, ma è più forte la marea. Punto, direi che ricordandovi che se avete voglia di scoprire di più potete ascoltare l'intervista che hanno fatto le nostre colleghe del giovedì e cercare appunto su Radio Città Fujiko sul nostro sito il podcast. A questo punto c'è un'indicazione che potremmo darvi, infatti se vi siete persi lo showcase di presentazione dell'album ma avete voglia di ascoltare dal vivo Niccolò Carnesi che canta Ho bisogno di dirti domani, c'è una possibilità, cioè le date del tour. Ok, per vedere Niccolò Carnesi in concerto per il momento avete un po' di possibilità, ma noi siamo abbastanza convinti che poi le possibilità aumenteranno. A partire dal 9 novembre il tour di Ho bisogno di dirti domani toccherà, per l'esattezza, il 9 novembre Torino allo Spazio 211. Il 23 novembre sarà dalle nostre parti perché suonerà al Covo qua a Bologna. Il 24 novembre sarà all'Oribò di Milano. Il 29 novembre sarà al Lumière di Pisa, mentre il 30, sempre novembre, sarà al Monk di Roma. Poi si passa a dicembre, insomma arriviamo verso la fine dell'anno e il 13 dicembre sarà al Mood Social Club di Rende, il 14 al Mercato Nuovo di Taranto, il 25, quindi buon Natale, ai Candelai di Palermo. Quindi a casa sua, insomma. Esatto, già che passa dal cenone direttamente a fare il live. E poi il 29 di dicembre al Retro Nouveau di Messina, quindi molto... molto ricco, diciamo, anche come tour. Nel giro di due mesi ci saranno tantissime date. Noi direi che a questo punto abbiamo raccontato un po' di cose riguardo a Ho bisogno di dirti domani. Vi ricordiamo che questo è il quarto album di Niccolò Carnesi, che contiene 10 tracce, per ora ne abbiamo ascoltate qualcuna, e che è uscito l'11 di ottobre. Allora, noi vi diamo appuntamento per il futuro con questo brano tratto appunto dall'album di Niccolò Carnesi che si intitola Il futuro. Nascondiamo l'orrore nelle nostre stanze e non è strano.